Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Lunedì scorso è arrivata finalmente la prima condanna nei confronti di un gerarca dei Khmer Rossi. Si tratta del criminale di guerra noto come Compagno Duc, che durante il regime di Pol Pot si era reso personalmente responsabile della tortura e uccisione di oltre 12.000 persone. Ma non si placano le critiche per l'inefficienza e i costi elevati del tribunale cambogiano, che dopo questa sentenza storica dovrà ora occuparsi degli altri responsabili dei massacri. A 31 anni dalla caduta di uno dei regimi più deliranti, paranoici e sanguinari della storia, un tribunale cambogiano ha emesso per la prima volta una sentenza nei confronti di un dirigente dei Khmer Rossi. Kaing Guek Eav, meglio noto come Compagno Duc, è stato condannato a 35 anni di carcere per gli omicidi, le torture, gli stupri e i crimini contro l'umanità commessi come responsabile di Tuol Sleng, la più famigerata delle prigioni del regime di Pol Pot. Per Duc, 67 anni, la sentenza potrebbe non coincidere con il carcere a vita. Nel dispositivo, il tribunale ha stabilito uno sconto di pena di 5 anni per risarcire l'imputato degli 11 già trascorsi illegalmente in prigione, riducendo la condanna effettiva a 19 anni e dando prova di una clemenza che Duc ha riservato a pochissimi dei suoi prigionieri. Sono solo 22 gli scampati a Tuol Sleng che in questi mesi hanno potuto sedersi sul banco dei testimoni e deporre contro il loro carceriere. Altri 12.273 detenuti da anni si limitano a guardare, silenziosi, dalle proprie foto segnaletiche, i visitatori del museo sorto nelle stanze dove gli uomini di Duc hanno interrogato e torturato, con pinze per strappare le unghie e alcol da versare sulle ferite, ferri roventi e cavi elettrici, tavolacci inclinati e potenti getti d'acqua per sottoporre i detenuti al waterboarding. Una volta ottenute e trascritte le confessioni, i prigionieri prendevano la via del Killing Fields, i campi di sterminio poco fuori Phnom Penh, resi celebri dall'omonimo film basato su un racconto di uno dei sopravvissuti, il fotoreporter cambogiano Dit Pran. Qui, per non sprecare pallottole, gli adulti venivano uccisi a bastonate e i neonati scagliandoli contro i tronchi degli alberi. Un orrore testimoniato ancora oggi da interi scaffali traboccanti di teschi ammucchiati gli uni sugli altri. Quando nel 1979 l'invasione dell'esercito vietnamita ha messo fine al regime di Pol Pot, la Cambogia, che nel 1975 aveva salutato l'ingresso a Phnom Penh dei Khmer Rossi, non esisteva più. Non solo perché passato, dissenso, proprietà privata e denaro erano stati aboliti per decreto, ma anche perché il 21% della popolazione, circa 1,7 milioni di persone, era scomparso. Chi aveva incontrato sul proprio cammino il Sentebal, ovvero i servizi di sicurezza interna guidati da Duc, era stato incarcerato, torturato e ucciso. Chi viveva in città ed era stato deportato nelle campagne da cui era partita nel 1969 la rivoluzione di Pol Pot, il più delle volte era morto di fame, fatica e malaria nei collettivi agricoli che avrebbero dovuto rappresentare l'inizio di una nuova società. I cosiddetti intellettuali, chiunque fosse istruito o ricoprisse un ruolo di responsabilità nelle istituzioni, erano stati sistematicamente sterminati in uno dei più spaventosi esperimenti di ingegneria sociale mai tentati al mondo. A oltre 30 anni dalla fine di quella stagione di sangue, stabilire fino a che punto la sentenza di martedì scorso sia il primo passo verso la nascita di una Cambogia finalmente in pace con la propria storia e gli spiriti dei suoi troppi martiri, non è facile. Da una parte il fatto che il tribunale abbia portato a termine il suo compito ha lanciato un segnale di fiducia agli investitori stranieri attratti dalla manodopera a buon mercato del paese, ma spaventati dalla sua stabilità. Dall'altra, la sentenza tutto sommato mite non ha fugato i dubbi circa la reale volontà dell'establishment cambogiano di fare i conti con il proprio passato. Non solo perché, come hanno fatto notare i parenti delle vittime, 19 anni non sono che una manciata di ore di carcere per ogni vita umana inghiottita da Tuol Sleng, ma anche perché in questi anni il governo ha tenuto un atteggiamento ambiguo rispetto alla tormentata storia recente del paese, facendo poco o nulla per consegnare alla giustizia la leadership Khmer. Pol Pot è morto prima di poter essere arrestato e Duque è stato rintracciato da due giornalisti, e ammonendo ripetutamente circa il rischio che una disamina troppo approfondita di quelle vicende possa innescare una guerra civile. Un atteggiamento comprensibile, considerato che l'attuale primo ministro ha un lontano passato nella guerriglia Khmer, che il suo ministro delle finanze è stato a suo tempo l'interprete personale di Pol Pot e che il ministro degli esteri è stato accusato di aver gestito un centro di detenzione. Non solo. Rimandare per anni il processo a Duque ha consentito di posticipare l'inizio di quelli potenzialmente più destabilizzanti contro altri quattro ex dirigenti Khmer, tra cui un ex presidente della Repubblica e un ex ministro degli esteri. A differenza di Duque, i quattro si professano innocenti e in aula promettono di dare battaglia, con il rischio di far riscrivere pagine che non tutti a Phnom Penh sembrano ansiosi di leggere. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Masciaga, condannato a 35 anni, il boia di Pol Pot, dal Sole 24 Ore del 27 luglio. Arriva un software in grado di prevedere i crimini, e questa volta non è soltanto un film. Anticipare il male prima che il male avvenga. Prevenire il crimine. Bloccarlo invece che reprimerlo. Pre-crime potrebbe diventare una realtà, come in Minority Report, il film con Tom Cruise. La polizia arriva sulla scena del delitto prima ancora che il delitto ci sia stato. Il sistema esiste già. È stato inventato negli Stati Uniti e adesso viene sperimentato anche in Gran Bretagna. Si chiama CRASH. Criminal Reduction Utilizing Statistical History. Ed è un sofisticato ma concettualmente semplice software costruito dalla IBM che i poliziotti di Memphis stanno testando da alcuni anni e con cui adesso provano a lavorare anche i bobbies britannici. Il software IBM prevede che i computer immagazzinino le informazioni sui delitti commessi, catalogando decine di impronte di ogni evento illegale, confrontandole con una serie di informazioni che vanno dai criminali conosciuti al loro comportamento, alle soffiate degli informatori, magari alla videosorveglianza e persino alle previsioni del tempo, se piove di notte si rubano più auto. Su richiesta o autonomamente, il computer offre agli agenti le sue previsioni, di rapine, atti vandalici dopo una partita, possibilità che vengano rubate auto. La tecnologia appartiene a quel settore in crescita dell'informatica che gli anglosassoni chiamano Predictive Analytics. I primi affari in questo business l'IBM li ha fatti con le banche e con altre industrie, investendo 11 miliardi di dollari solo negli ultimi 4 anni per sviluppare il settore. Ben 22 delle 24 più importanti banche commerciali al mondo e 18 delle 22 società di telecomunicazioni si affidano alla Predictive Analytics di IBM. Il salto nel settore della sicurezza non è quindi un azzardo. I poliziotti della pre-analysis, se anche non avessero sul tavolo tutti gli elementi per fermare un criminale prima che la sua pistola spari, potrebbero evitare azioni di teppisti, di hooligans, furti in casa e rapine in banca. Secondo il Dipartimento di Criminologia dell'Università di Memphis, in città dal 2006 in poi c'è stata una riduzione del 31% del crimine, in generale, e del 15% dei crimini violenti. Soprattutto il sistema ha rafforzato il morale degli agenti della polizia cittadina, permettendo loro di fare più arresti mirati, aiutando gli agenti a sentirsi sempre più protagonisti di azioni di successo. C'è una sola avvertenza. Il contesto, la scena in cui questo programma è applicabile, deve già essere molto informatizzato. In America e Gran Bretagna da anni le polizie lavorano e raccolgono massicciamente dati con l'informatica. In Italia, dove le forze di polizia non riescono neppure ad avere radio che parlano fra di loro, la pre-crime per forza di cose sarà ancora affidata al fiuto del commissario Montalbano o del maresciallo Rocca. Anzi, l'informatica potrebbe servire a distribuire i casi con italico equilibrio tra polizia e carabinieri. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Vincenzo Nigro, Dal film alla realtà, Così un super software prevede il crimine, da Repubblica del 27 luglio. La moda della depilazione femminile risale agli inizi del secolo scorso e pare sia nata dall'intuizione di un manager della Wilkinson che cercava nuovi modi per vendere più rasoi. Lei non la conosco, ma deve avere 20 anni. E quando alza un braccio per toccarsi i capelli, mi mostra un'ombra che non vedevo da un secolo. Spiaggia italiana, Bar Balneare, 2010. Ero distratto, ma mi assale, violento, il sentimento di qualcosa che è andato perduto. Sofia Loren e Claudia Cardinale. Il neorealismo. La sconosciuta non si depila le ascelle e diffonde tutto intorno sapore di tamarindo, orzata e latte e menta. Sotto le braccia delle donne sono custodite le cose passate di moda. Nidifica il ricordo di ciò che un tempo piaceva e oggi fa ridere o orrore. Le chiedo come mai. Risponde: che palle, non avevo tempo. Faccio un'indagine tra i maschi. C'è chi dice: io, guarda, neanche Venere se avesse le ascelle pelose. C'è chi: a me non mi sposta una virgola. E poi ci sono quelli, pochi, che rimpiangono l'epoca in cui le ragazze non si rasavano. Faccio un'indagine tra le femmine. Non ne trovo una, salvo una reducessa del femminismo reale, che ancora contempli l'ipotesi, se non per distrazione o disperazione, di non radersi. Interrogo una vecchia signora, Ida, 96 anni, che si sganascia ricordando di quando negli anni 20, per andare a Forte dei Marmi con la sorella, rubavano il rasoio al papà. Ma è sempre stata elegante, per di più di madre irlandese, borghese e anche un po' all'avanguardia. Poche italiane, almeno fino al dopoguerra, si sono preoccupate dei peli superflui. Peli superflui? Perché dice così? Esistono peli necessari? Sono necessari i capelli? Faccio un'indagine storica. Scopro che l'inizio della depilazione ascellare si deve all'idea di un anonimo manager della Wilkinson. Se le donne si depilassero, pensò, le vendite dei rasoi aumenterebbero. E così, nel maggio 1915, su Harper's Bazaar, una ragazza sollevò per la prima volta nella storia un'ascella nuda al pubblico. Il messaggio era semplice: depilarsi è igienico. Non era vero, ma in 2 anni le vendite raddoppiarono. L'abitudine dilagò nel mondo anglosassone senza che quello latino se ne desse troppo pensiero. Ma l'essenza del capitalismo è allargare la fascia dei consumatori e non demordere mai. E così, a partire dagli anni del boom, l'abitudine si diffuse anche in Europa, Italia compresa. È strano pensare che perfino i nostri gusti erotici siano storicamente determinati. Dipendiamo da sporadiche idee del passato, del tutto contingenti, per nulla necessarie. Dedichiamo una vita a capire ciò che ci piace, senza sospettare di dipendere dall'intuizione notturna di un giovane impiegato della Wilkinson, morto e sepolto da decenni. Ma la domanda rimane: perché oggi odiamo i peli? Perché le donne ormai si depilano ovunque? E perché lo fanno sempre più anche gli uomini? In un famoso haiku dedicato alla moglie e cugina Erika Araki, il poeta giapponese Junichiro Kawasaki scrisse: «Amo i tuoi peli uno per uno, poiché mi sussurrano che ci amiamo da sempre, alla maniera delle cose che passano. Bisbigliano che eravamo scimmie e non saremo mai angeli». Ma io non sono d'accordo. La depilazione non dice nulla dei peli. Dice molto di come pensiamo la pelle, l'involucro del corpo, che deve essere liscia, tesa, nuova, poiché è il tessuto che avvolge ciò che siamo e mostriamo. La depilazione racconta la nostra concezione del corpo, pulito, modellato, sgrassato, depilato, scolpito. Un oggetto esterno da conservare con cura, la proprietà da cui ogni altra dipende. La pelle diventa il foglio bianco su cui disegnare, con creme, operazioni, depilazioni, tatuaggi e ginnastica, ciò che vorremmo riuscire ad essere. La pelle diventa il nostro primo vestito. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giacomo Papi «Eravamo scimmie, non saremo mai angeli», dal settimanale D, allegato a Repubblica del 24 luglio.